1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qua, sono le 7:17 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali. Se siete svegli con noi vuol dire che non siete dei grandi debosciati. E allora vi ricordo di che parleremo oggi alle 8:15. Sapete che in Europa c'è questa polemica per l'unione tra Marine Le Pen del Front National in Francia e la Lega di Matteo Salvini. È un modo per parlare anche di immigrazione. Oggi avremo ospiti diverse persone. Angelo Ciocca, che era candidato alla Lega Nord e probabilmente subentrato proprio a Matteo Salvini, che ha rinunciato in qualche seggio all'Europarlamento italiano per la Lega. Avremo ospite Carlotta Bellini, che fa parte di Save the Children Italia, anche perché vogliamo raccontare, vi ricordate, la vicenda dei 100 bambini provenienti dalla Siria che sono arrivati in mare. Che fine hanno fatto? Perché l'informazione è così, racconta l'arrivo, racconta l'inizio di alcune storie e poi non si capisce bene dove siano finiti. Così come per quel che riguarda l'immigrazione, ci collegheremo con la nave San Marco della Marina Militare Italiana che partecipa alla missione Mare Nostrum. E così come parleremo di Siria, visto che molte delle persone che fuggono dalle guerre arrivano proprio da quella zona, la Siria. E vogliamo ricordare anche la vicenda di Padre Dall'Oglio, gesuita, rapito ormai quasi un anno fa in Siria e di cui non si sa molto. Qualcuno dice sia stato ucciso, qualcuno smentisce e parla di trattative ancora in corso. Ne parleremo anche di questo alle 8:45. Insomma, un menù molto ricco di ospiti e di temi. Intanto andiamo ad affrontare la lettura dei quotidiani. Questo mercoledì 28 maggio, intanto i titoli delle aperture dei giornali. Il Sole 24 Ore apre sull'Europa che cerca la svolta per la crescita. Questo è il titolo di prima pagina. Così il Corriere della Sera, Europa, tensione sulle nomine. D'altronde ieri c'è stato il vertice con i leader dopo le elezioni europee. Il titolo di Repubblica, i leader processano l'Europa. Mentre il Fatto Quotidiano, la rottamazione può iniziare, Letta è in corsa per l'Europa. Ecco, esce fuori il nome di Enrico Letta, il premier prima di Renzi, che potrebbe essere candidato italiano alla Commissione europea. La Stampa, prima sfida Renzi-Merkel, questo è il titolo di prima pagina. Per il Messaggero, deficit, il piano Renzi per l'Unione europea. Libero invece, manifesto per il centrodestra dopo la batosta. Il Giornale, inchiesta sul complotto, alla Procura di Roma aperto un fascicolo sulla congiura contro Berlusconi. Mentre per il Secolo XIX la scossa di Renzi all'Unione Europea, il titolo di apertura dell'Unità invece è Renzi scuote l'Europa. Come vedete, questa è la notizia per molti di apertura su come i leader europei stanno cercando, i leader dei vari paesi, a cambiare l'Unione e Bruxelles. Stanno iniziando a discutere. Io però voglio partire da alcune notizie che ho trovato in Italia molto curiose. La prima la trovo sul Secolo XIX. Spesso sapete che parliamo delle spese delle regioni, spese pazze, consiglieri indagati. Raccontiamo queste vicende come le raccontano i giornali. E magari mancano i nomi dei protagonisti. Oggi il Secolo XIX fa un'azione meritoria perché intervista la donna che in Sardegna ha dato il via a tutte le inchieste della procura sulle spese pazze presunte dei consiglieri regionali. Una donna definita contro i furbetti, che dice: da quando ho denunciato mi calunniano. È la storia di Ornella Piredda, funzionaria della regione, intervistata da Sondra Coggio sul Secolo XIX. Ecco qui l'intervista, pagina 10. Sì che ho avuto paura in questi 8 anni dalla prima denuncia che ho fatto, perennemente. Non c'è stato un solo attimo senza paura, tutt'oggi ne ho. E non solo per le minacce, le calunnie, le falsità contro le quali hanno cercato di demolirli. di demolirmi. Non è solo per questo che sono stata male e che sto male. La paura più tremenda che mi assale è che tutto questo non sia servito a niente. Eccola qui, è la funzionaria della regione Sardegna che ha fatto finire sotto inchiesta per peculato 65 consiglieri regionali, partiti diversi, legislature diverse, stesso sistema, migliaia di euro di spese private rimborsate con migliaia di soldi pubblici. Il 30 maggio sarà in aula da sola la super teste contro il sistema che ha smantellato. Ora, in un'intervista al Secolo, dice: non immaginavo una corruzione tanto vasta quando ho denunciato che i rimborsi spese del gruppo misto non erano giustificati e che incassavano tutti 2.700 euro fissi a testa al mese senza ricevuta. Qui non è questione di partiti ma di sistema, un sistema sbagliato, dice Ornella Piredda, capace di sprecare milioni mentre la gente non ha lavoro, non sa come fare a vivere. C'è chi è finito in carcere delle persone denunciate, ma chi comunque continua la carriera politica, parliamo di ruoli molto importanti. E ricorda al Secolo che l'inchiesta scoperchiata dalla sua testimonianza è quella che ha fatto scoprire banchetti con 15 maialetti arrostiti, penne da 700 euro, ciotole in argento, viaggi, centri benessere, feste di nozze con pecore e vitelli arrostiti, vini, formaggi, tutti a spese dei contribuenti. Non sapevo che le cifre fossero queste, confida oggi questa funzionaria della regione, una sfacciataggine così, non la immaginavo. E nessuno fiatava, perché il sistema rende anche ai dipendenti, non solo ai politici. Così, quando ho detto basta, sono iniziate le ritorsioni e mi sono trovata sola. Le hanno tolto l'ufficio, è stata isolata in uno sgabuzzino senza luce, né internet, nessuno osava farsi vedere con lei neanche per bere un caffè. Sono stata, dice lei, emarginata, demonizzata, mi ha ridotto lo stipendio, ho dovuto vendere la casa e indebitarmi. Nessuna solidarietà, solo minacce e paura, ne ho risentito con la mia salute, ho vissuto e vivo momenti difficili. Beh, insomma, io la vorrei invitare. Lo faccio pubblicamente come appello, poi la cercheremo, perché la solidarietà è massima, massima, almeno mia personale, è qui in 24 mattino. Per questa funzionaria della regione che dice: fui la prima a denunciare le spese pazze dei politici, da allora ho smascherato il sistema che mi ha emarginato, mi ha isolato, mi ha tolto l'ufficio e ora dovrò andare in aula. A volte appunto leggiamo di notizie sui giornali, ma non sappiamo poi le storie personali che ci sono dietro, come quella della funzionaria della regione Sardegna Ornella Piredda, davvero, non lo dico con enfasi, ma eroica, perché poi mettersi contro il sistema, come lo definisce lei, non è certamente facile, e la trovate in intervista sul Secolo XIX. A proposito di Italia un po' così, quelle che ci fanno arrossire, oggi Sergio Rizzo racconta in prima pagina del Corriere della Sera quel concorsone di Roma e la grande beffa. Buste trasparenti, esaminatori svaniti, 4 anni di attesa per un concorso e 2.671 aspiranti vigili che puntavano a diventare uno dei 300 assunti al Comune di Roma. Succede in Italia l'odissea di 2.671 ragazzi che hanno partecipato a un concorso per 300 vigili a Roma, un concorso sospeso da 4 anni. Sul sito internet del comune è scritto che i lavori della commissione esaminatrice sono sospesi a decorrere dal 10 maggio 2013. Tutto ciò al sapore di una beffa. Il consiglio più sensato, scrive Rizzo, che si può dar loro a questo punto sarebbe quello di mettersi l'anima in pace. Destinatari? Proprio questi 2.671 ragazzi ai quali è toccato in sorte di partecipare a un concorso per 300 vigili a Roma. Una storia che inizia il 23 febbraio 2010, il sindaco era Gianni Alemanno, quel giorno il Campidoglio cercò tra gli altri 300 vigili. Alla selezione si presentano in 16.000, vengono giudicati idonei 2.671, fanno il concorso, ma poi si scopre una vera e propria odissea. In questa odissea si scopre tra l'altro che le buste utilizzate lasciavano intravedere i compiti. Quindi erano trasparenti, si intravedevano, ora verranno tutti reimbustati, i commissari sono spariti, la nuova commissione nominata da Marino, con Costantino Salvatore, presidente onorario del Consiglio di Stato, a capo. Dopo un mese saluta tutti e se ne va, motivi personali. Il 14 febbraio arriva allora il prefetto Alberto Capuano, anch'egli con un passato di capo della Polizia Municipale della città. A lui 18 giorni sono più che sufficienti per rendersi conto che non è aria. Il 4 marzo si dimette, spiegando al sindaco che lo stato del procedimento è tale che alla sua conclusione non potrà pervenirsi che dopo non pochi mesi di continuo lavoro. E non è l'unico a gettare la spugna, lo fa pure un altro membro della commissione, Attilio Vallante, per sopravvenuti impegni istituzionali inconciliabili col gravoso carico di lavoro richiesto. E quindi si nomina una quarta commissione con un quarto presidente, il prefetto Vincenzo Greco, commissario del comune di Minturno in provincia di Latina, e si va avanti nel tentativo evidente di trovare un posto nel Guinness dei primati delle commissioni. La prossima tappa riguarda le buste, una sottocommissione di 10 elementi, la sottocommissione, ha l'incarico di reimbustare 2671 compiti, perché si vede in trasparenza. Naturalmente i candidati che saranno, ma quando, scrive Rizzo, ammessi alla prova orale dovranno ripartire da zero, perché ora verranno corretti una seconda volta tutti i compiti una volta che saranno reimbustati, sempre che tutto serva a qualcosa. Insomma, storia e odissea di un concorso per 300 vigili a Roma, iniziato nel 2010. Siamo nel 2014, siamo alle commissioni, alle sottocommissioni. Ragazzi, ma voglio dire, ma altro che c'è da lavorare per far progredire l'Italia. Dai, su, dai, andiamo in pubblicità. Alessandro Milan, il John Holmes dell'informazione. Già, bisogna un po' ravvivarle, queste, il John Holmes dell'informazione, sì. Mandate le vostre siglette, se volete, cari ascoltatori, alla nostra segreteria telefonica, di cui non ricordo il numero, quindi sarà facile che voi le mandiate. Allora, ricordiamo che cosa? No, continuiamo nella lettura dei giornali. L'Europa certamente è in primo piano, perché dopo le elezioni europee c'è stato il primo vertice ieri con i leader europei e Matteo Renzi anche tra i vari protagonisti. Il dibattito, come si legge dai giornali, è sulla tensione, sulle nomine. Bisogna scegliere il presidente della Commissione europea. Tra l'altro, secondo alcuni giornali, il Fatto Quotidiano lo mette in prima pagina, Repubblica lo mette a pagina 2, spunta Enrico Letta, l'ex presidente del Consiglio. Potrebbe essere il nome da spendere per la politica italiana. A pagina 2 di Repubblica, come detto nel racconto di Alberto D'Argenio, a un certo punto si scrive proprio questo: pronta la carta Enrico Letta dell'Italia. Se il negoziato davvero andrà in stallo, non si esclude di poter giocare la carta Enrico Letta per la presidenza della Commissione europea. Anche se Repubblica fa sapere, sarà dura, così come sembra difficile ottenere la guida dell'Eurogruppo con Piercarlo Padoan. Dunque, il secondo bersaglio di Renzi è la carica di alto rappresentante della politica estera dell'Unione, oggi in mano a Catherine Ashton, un posto di prestigio al quale il Premier vede sempre bene Letta, ma che è ambito anche da Massimo D'Alema, che potrebbe però andare anche all'ONU come inviato per la Libia. E vabbè, sapete, ci sono le nomine anche europee, dunque si scalpita per cercare di avere dei posti e anche delle rappresentanze italiane nei posti che contano, strategici. L'altro grande tema però è quello del cambiare l'Unione. Ieri abbiamo avuto Gianni Pittella del Partito Democratico, che ha detto qui ai nostri microfoni in maniera esplicita: dovremo batterci soprattutto nel semestre di presidenza europea da parte dell'Italia per fare in modo che ci sia per esempio una proroga e una deroga più che altro per 3 anni magari della possibilità di violare il deficit, il rapporto deficit-PIL del 3%, quindi i patti patti, il 3%, il patto di stabilità, magari per le spese nell'innovazione tecnologica, oppure quando succedono eventi catastrofici come il terremoto dell'Aquila, dice non è possibile, non si possa ricostruire perché questo viola il patto di stabilità. Allora è interessante su questo dibattito, che è un dibattito annoso, vede da una parte la rigorosa Germania e dall'altra parte i paesi invece che chiedono un po' più di flessibilità a questa austerity. È interessante leggere l'articolo del Corriere della Sera, Danilo Taino, a pagina 5. Il ciclo delle politiche di austerity può davvero chiudersi così? Questo è il dibattito. Scrive Taino, quella che di solito con sdegno viene definita austerità imposta da Berlino va qualificata nel discorso politico in Italia, ma non solo, spesso è intesa come una politica punitiva che Angela Merkel ha voluto imporre dall'alto delle virtù tedesche a paesi che hanno peccato nella gestione dei loro bilanci pubblici. Ma intanto Berlino non cambia strada, prima di tutto perché in Germania la Merkel e il ministro delle finanze Schäuble non hanno intenzione di stravolgere la loro politica europea, sono più flessibili sui tempi di rientro dai deficit, un po' perché il picco acuto della crisi è passato, un po' perché essi stessi hanno introdotto misure in parte contraddittorie con una politica di rigore dura e pura. Per esempio alla Francia è stato dato più tempo per rientrare dal deficit, all'Italia verrà probabilmente accordata una certa flessibilità, ma questo è tutto. Chi pensa che la via della crescita sia lastricata di spesa pubblica si illude. E ancora, il fiscal compact non è morto per la Germania. Scrive ancora il Corriere, una seconda ragione per la quale il rigore resterà al cuore delle politiche europee e il fiscal compact non verrà rinnegato sta nei risultati delle elezioni. I partiti pro rigore hanno perso seggi nel Parlamento europeo, ma non sono crollati e la famiglia dei popolari è ancora la più numerosa e dunque anche il fiscal compact verrà in qualche modo difeso. Dunque, sì a maggiore flessibilità, magari qualche concessione, ma la linea dell'austerity di Berlino rimane e non verrà certamente sradicata dalla Germania. Ho c'è da dire che solo il secolo XIX si concentra su quello che è in un articolo a pagina 3, il reportage tra i palazzi del potere, anche una sorta di spreco che c'è all'interno dell'Europarlamento. A Bruxelles c'è un funzionario, un commesso, anzi ogni 15 metri. Ogni 15 metri al secolo XIX notano questa cosa, c'è uno spreco di carta enorme per stessa ammissione dei funzionari che dicono stampiamo la metà delle copie della carta che stampiamo vengono cestinate, magari perché non si vogliono fare 10 metri o non si vuole salire da un piano all'altro, si stampa ma poi cestiniamo tutto, ma aggiungono al giornalista Francesco De Remigis, questo però non lo deve scrivere, ovviamente il giornalista lo scrive subito, ma soprattutto c'è un funzionario, un commesso ogni 15 metri, questo ha notato il giornalista del secolo XIX. Va bene, intanto venendo all'Italia ci sono sempre le questioni del dopo voto. Tre giorni dal voto e si analizza quello che è successo. Pierluigi Bersani fa un'intervista al Corriere della Sera con Aldo Cazzullo e dice: a Renzi serve umiltà, ma l'ho compreso vedendolo dopo la vittoria nella conferenza stampa che ho molto apprezzato. Un Bersani che parla anche del suo passato e dice: sono stato contento nel vedere i volti nuovi del PD nella notte della vittoria, ma non sono spuntati dal nulla, li abbiamo portati in Parlamento nel 2013, che è un modo un po' sobrio anche per Bersani di dire che ci sono stati tanti che stranamente sono saliti sul carro del vincitore Renzi dopo la vittoria. Nel centrodestra invece c'è Libero che lancia un manifesto per rilanciare il centrodestra dopo la batosta elettorale, con Berlusconi che ieri ha riunito i suoi più fedeli sostenitori politici per dire: io il leader, chi non ci sta può uscire. Questo a pagina 11 è il titolo di Repubblica, retroscena di Carmelo Lo Papa. Marina Berlusconi ancora una volta ha smentito una discesa in campo personale. Io resto alla guida del partito, dice Berlusconi, se a qualcuno non va bene è sempre libero di dirlo o di andare via. Rimango il leader. Questo il titolo di Repubblica, ma lo si trova un po' un po' ovunque. Tra l'altro, legato al centrodestra, e questa è la notizia di prima pagina del Giornale, c'è stata questa apertura di un fascicolo alla Procura di Roma. Il titolo del Giornale è questo: inchiesta sul complotto, ma anche il Corriere della Sera dedica una pagina a questo tema. Complotto anti-Berlusconi, la Procura di Roma indaga. Per la verità tutto nasce da denunce di alcuni parlamentari di Forza Italia, prima fra tutti Micaela Biancofiore. E è stato aperto un fascicolo nella Procura di Roma, senza ipotesi di reato, senza indagati al momento, sulle memorie dell'ex ministro del tesoro americano Tim Geithner sul presunto complotto per abbattere il governo Berlusconi nel 2011. Complotto anti-Berlusconi, la Procura di Roma indaga. Così sul Giornale: la Procura di Roma indaga sul complotto anti-Cavaliere, l'indagine per ora è contro ignoti. Poi si dice l'ingolfamento dei fascicoli nelle procure. L'altro movimento che certamente è in analisi, oserei dire, dopo questa elezione con il 21%, è il Movimento 5 Stelle. Ieri ho letto la doppia intervista di Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, che noi chiamiamo tutti i giorni, ma noi risponde: no, grazie, non faccio interviste. Rilascia a tutti, ma rinnoviamo l'appello pubblico che abbiamo fatto alle 6:30. Caro sindaco di Parma, perché non viene a spiegarci anche da noi che ne pensa il Movimento 5 Stelle? Comunque, dopo questa doppia intervista che ha fatto ieri al Fatto Quotidiano e al Messaggero, c'è il malessere dei fedelissimi, critiche a Grillo, 7 giorni per cambiare rotta, molti condividono le parole dure di Pizzarotti, questo è il titolo per esempio del Corriere della Sera. Ma di Movimento 5 Stelle torniamo a parlare tra un attimo. Prima infatti voglio salutare Mauro Meazza, il grandissimo, l'imprescindibile, il guru del Sole 24 Ore, il casaleggio del Sole 24 Ore, Mauro Meazza, eccolo qua. Buongiorno Alessandro, quindi evidentemente hai ricevuto la lettera monitoria del mio legale sui lanci precedenti. Vedi che adesso ho corretto il tiro, come si suol dire. Questo mi fa piacere, poi vedremo se posso pagare il mio legale. Certo, come con vedi poi il bancomat oppure no. Esatto, come vedi poi io schiena dritta, appena ricevo la lettera, via. Subito, certo, mantieni le tue posizioni. Certo. No, lo legavo al discorso del bancomat perché appunto leggendo il Sole 24 Ore c'è questo utile riepilogo dal 30 giugno, anche gli artigiani, i professionisti, insomma, dovranno mettere a disposizione il bancomat, il POS, il point of sale, insomma, la macchinetta per pagare col bancomat sopra i 30 euro, però bisogna poi vedere, ci sono delle proteste, ci sono già state, c'è anche il fatto che l'obbligo di non ha precisamente una sanzione, quindi se uno non può pagare non è che sia prevista una sorta di sanzione, qualche categoria, ma riepiloga tutto bene Federica Micardi insieme a Benedetto Santa Croce oggi sul Sole 24 Ore. Poi posso dare due numeri, ma sarebbe uno, ma li divido. Di solito li dai i numeri, quindi di puoi dare. Di solito li do, certo. Allora vorrei dirti 2172. Che però potresti anche giocare 21-72, infatti. Ne manca un altro sul terno, non lo so, poi diamo la ruota anche. Il terno non ce l'ho, puoi giocare il 30 giugno, potrebbe essere 21-30-72, segnateveli, 21-30-72, la ruota ce la dici? Del Sole 24, non lo so, la ruota è quella della TASI, la ruota del Sole 24, la ruota della TASI, come noto, gira un po' come la ruota della fortuna. Comunque 2172 o 2172, se volete l'ambo, è il numero dei comuni che hanno deliberato, però essendo i comuni in Italia più di 8000, come dicevamo già ieri, insomma siamo 6.000 comuni che stanno appesi alla proroga per il 16 ottobre o rimandano al 16 dicembre per la prima casa. E tutto questo è spiegato sul Sole 24 Ore di oggi con una pagina in attesa delle decisioni del governo, perché bisogna confermare quanto detto a Radio 24, cioè questo famoso 16 ottobre. Quanto è stato detto da Alessandro Milan, che come noto ha valore di legge, anche se abbiamo ancora qualche problema a farlo rientrare nelle fonti ufficiali. E poi è partito il nuovo catasto, sei contento? Sta partendo, sì, diciamo. Ecco, stiamo cercando l'algoritmo. Se tu per caso avessi degli algoritmi, passali alle commissioni censuarie che verranno nominate in questi giorni, cioè il cui decreto di nomina verrà varato in questi giorni, sì. E così potremo adeguare cerchiamo, la vendita. Cerchiamo inventori, cercasi inventori di algoritmi validi. No, cerchiamo proprio algoritmo punto, perché bisogna adeguare tutte le rendite, sai, c'è in giro un pochino di immobili nel paese, quindi bisognerebbe trovarlo abbastanza versatile questo algoritmo. Vediamo. Sì. Vediamo che succede. In allegato oggi con il Sole 24 Ore, a proposito di Bancomat, algoritmi e diavolerie elettroniche, la fattura elettronica dal 6 giugno, ecco, vedi, cercavi un altro numero, stiamo arrivando alla cinquina, dal 6 giugno, che si può anche giocare 66 a questo punto, perché no? E l'obbligo di fattura elettronica per tutta una serie di pagamenti richiesti ai ministeri, alle agenzie fiscali e agli enti di previdenza. È importante, se no non pagano. Allora no, io prima che tu lanci il tuo momento, ricordo 6, 21, 30, 66, 72 sono i numeri di Meazza. Se vincete, dateci, ricordatevi di noi. E così non si dica che non do i numeri tutte le mattine. Benissimo. Molto bene, vado? Vai. Traffico. Alessandro Milan, il Belen Rodriguez dell'informazione, a mio insindacabile giudizio. È uguale, uguale. Ringrazio anche l'ascoltatore, l'ascoltatrice che mi scrive, la mia voce, la voce di Milan è insopportabile, con un tono indisponente, sciocco come quello di un bambino antipatico. Grazie, buona giornata anche a lei, caro ascoltatore, ascoltatrice. Andiamo avanti con la vicenda, insomma, del Movimento 5 Stelle, le critiche a Grillo, 7 giorni per cambiare rotta, così scrive almeno il Corriere della Sera. Ora spuntano appunto le critiche anche molto molto palesi, come quella dell'onorevole Tommaso Curro, intervistato da Tommaso Ciriaco su Repubblica. Il titolo dell'articolo è: la polveriera del Movimento 5 Stelle parte la resa dei conti. Curro dice: Grillo si dimetta, Beppe, qui esplode tutto. Dice Beppe aveva promesso, l'onorevole Curro, che in caso di sconfitta avrebbe lasciato, ora lasci. E tra l'altro c'è questo retroscena, racconta Tommaso Ciriaco, di un leader, Beppe Grillo, dato per molto stanco, quelli che vengono definiti i falchetti da Repubblica lo implorano di mostrarsi subito a Roma, vieni qui altrimenti esplode tutto, ma lui netto risponde: forse non ci siamo capiti, io sono distrutto, ho bisogno di stare con la mia famiglia, ora dovete lasciarmi in pace per un po'. Infatti ieri, racconta Repubblica, a bordo di una Smart è stato visto in un ristorante di Santa Margherita Ligure pesce, ostriche e la compagnia di un amico. Certo, però c'è molto di cui discutere all'interno del movimento. Il Fatto Quotidiano propone due interviste a pagina 8, Walter Rizzetto, che viene intervistato credo anche da Repubblica, dice: chi criticava i toni era accusato di tradimento, io ho fatto il tweet, bisogna sorridere di più, abbassare i toni, qualcuno, quando lo diceva qualcun altro, era additato come dissidente. Questo è il tweet di Walter Rizzetto, onorevole del Movimento 5 Stelle, che ha commentato così il presunto cambio di linea dettato da Grillo e Casaleggio. Prima del voto, quando qualcuno sollevava dubbi sui toni troppo forti, dice l'onorevole Rizzetto, non veniva ascoltato, spesso veniva accusato di essere un traditore. Mentre Pizzarotti ha auspicato un movimento che cammini da solo, parole di buonsenso che dovrebbero essere ascoltate da tutti senza il paraocchi. Insomma, come vedete, all'interno del Movimento 5 Stelle, lo stesso Rizzetto anche su Repubblica dice: basta toni esagerati, dice bisogna cambiare la linea. Vabbè, questa è la politica italiana. Per quel che riguarda la cronaca, segnalo che ci sono sviluppi sulla vicenda che ha portato all'arresto dell'ex ministro dell'ambiente Corrado Clini. Oggi su tutti i giornali c'è la ricostruzione, secondo la procura, di quello che sarebbe il giro di soldi, addirittura con un conto, nome in codice Pesce, trovato in Svizzera, e nel quale si nascondono, secondo i magistrati, i soldi che Clini, insieme alla compagna, assessore di Cosenza, Martina Hauser, avrebbe portato via al ministero. Spalloni e nome in codice Pesce, così Clini rubava i soldi del ministero. Pagina 20 del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini ricostruisce i passaggi esteri e poi i soldi arrivavano a destinazione. Nel conto corrente presso la filiale di Lugano dell'UBS intestato a Corrado Clini, nome in codice Pesce. Celandosi dietro questo pseudonimo, l'ex ministro dell'ambiente pensava forse di farla franca. Invece sono state proprio le autorità elvetiche a denunciare l'irregolarità di 8 bonifici per un totale di 1.020.000 euro ordinati tra il 2008 e il 2011, contestandogli il reato di riciclaggio. Alla fine le verifiche della Guardia di Finanza hanno convinto il giudice di Ferrara a far scattare l'arresto. E tra l'altro, secondo la procura, indagando sui flussi finanziari che superano i 215 milioni di euro, si ipotizza il reato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione anche nei confronti della moglie Martina Hauser, assessore comunale a Cosenza, destinataria di alcuni contratti di consulenza proprio grazie al marito. Anche su Repubblica il conto Pesce in Svizzera, cassaforte segreta di Clini, indagata ora anche la moglie. E anche sulla Stampa, truffe internazionali in Svizzera, il tesoro dell'ex ministro Clini. Ovviamente bisognerà vedere, ma certamente la procura gioca queste carte molto, molto nette. Va bene, che dire, siamo al momento conclusivo? Sì, sempre prima, eccolo qui il momento conclusivo, il momento della carta costa. Oh, mi tocca dare ancora una volta la vittoria al giornale, ma com'è possibile questa cosa? Serena Sartini che fa un'intera pagina su il Papa che predica il verbo però non conosce le lingue. Il Papa mastica poco l'inglese, zoppica in francese, non parla tedesco, comunica solo in italiano e spagnolo, ma lo stesso giornale scrive però si fa capire lo stesso. Ma dai, ma una pagina su questo, il Papa e le lingue. Vabbè, amici del giornale, mi sa che state trionfando e state per vincere la Coppa. La carta costa che stiamo preparando e consegneremo presto, la carta costa, ricordatevelo. Andiamo al giornale radio, ci sentiamo subito dopo alle 8:15 con gli ospiti.